Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Eccoci a voi come ogni domenica, cari ascoltatori, con un grandissimo affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Allora Antonio, qui stiamo andando avanti, fra poco arriva l'estate. Molto velocemente. Tu sei contento, vero? Molto, molto, devo Poi dire. Io sì. Soffro il caldo umido qui di Treviso, ma insomma pazienza. Ci accontentiamo. Allora, nel frattempo diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Con un saluto cordiale naturalmente al nostro regista e al nostro coordinatore. E salutiamo anche Emilio Gallina con la sua signora. Il nostro grande Emilio, sì, esattamente. Sì, ecco, lo salutiamo con un pensiero affettuoso. Esatto. Bene. Allora, andiamo con la prima canzone. Oh, che mi piace il titolo di questa canzone, e anche cerco di metterlo in pratica. Non mollare mai. Gigi D'Alessio. Gigi. Ero ancora ragazzino e con mio padre litigavo per i brutti voti a scuola, un solo sei. Ma di musica lo giuro, ne facevo indigestione, preferivo un pianoforte che due calci ad un pallone. Quanto tempo ci passava sopra quei tasti che sfioravo, era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, sorridevano felici, quella voglia di arrivare era forte dentro me. Risposta era la solita per me, ci faremo noi sentire, le faremo poi sapere, ma il telefono non mi squillava mai. E oggi, stasera, appunto, abbiamo non abbiamo un ospite in studio, ma abbiamo un ospite virtuale, cioè appena letto il primo racconto di questo ospite, verrà al telefono e ci parlerà. Di che cosa ci parlerà? Dei giochi antichi. Vabbè, comunque l'ospite è Donato Marinello, che è della Bassa Ferrarese, e è stato ancora nostro ospite diverse volte. Lui ci parla proprio della campagna ferrarese di Rovigo, quelle parti lì, insomma. E ha scritto dei racconti che noi ve ne abbiamo già letto diversi. E stasera, prima di tutto, prima di sentirlo al telefono, vi leggeremo un racconto intitolato Volare alto. Volare alto. Settimo Spezzapan era un alunno a dir poco irrequieto, uno che a scuola ci andava semplicemente per far disperare compagni ed insegnanti. Dopo una serie di bocciature era finito nella quarta B, una classe super affollata come lo erano quasi tutte le aule nell'immediato dopoguerra, ma governata da Clara, una maestra di polso. Si sperava che con la nuova insegnante Settimo si desse finalmente una regolata, ma non fu così. Ogni mattina, alla mamma che gli raccomandava di comportarsi bene, il figlio prometteva, ma poi svogliatezza e mancanza di interesse finivano per condurlo nel percorso opposto. Una mattina non erano passati che pochi minuti dall'inizio delle lezioni quando incominciò col provocare chi gli stava davanti, segnandogli il colletto con il pennino intinto d'inchiostro. Il compagno fece finta di nulla, ma alla seconda molestia alzò la mano. «Tienela giù, se non vuoi che ti riempia di botte!» Non soddisfatto, Settimo estrasse di tasca una cerbottana, cosa non c'era nelle sue saccocce. Vi infilò una pallottolina di carta che sparò sulla testa di un compagno, poi a ripetizione sugli altri e da ultimo sulla stessa maestra mentre girava le spalle alla classe. Clara si voltò di scatto. «Chi è stato?» Scrutò attentamente la scolaresca alla ricerca di un indizio. Non ottenne che il silenzio. «Allora, se nessuno è stato, dovrò punirvi tutti!» Commenti e parole di dissenso serpeggiarono fra gli alunni. Si apprestava a dare una nota generale quando si udì una voce. «Sono stato io, mi scusi!» Settimo alzò la mano stringendo l'arma. Si considerava un guastafeste, ma non un vigliacco. «Dovrei sospenderti!» disse la maestra, incenerendolo con lo sguardo. «Dammi subito quella canna!» Domato il capo, Clara era convinta di aver ripreso il pieno controllo della situazione, ma si sbagliava. Girò nuovamente le spalle alla classe, dovendo concludere una spiegazione alla lavagna, ma non ebbe il tempo. Qualche istante dopo, distratta da improvvise risate, osservava allibita il volo di un aereo che stava planando sulla cattedra. Lungo la fusoliera c'era scritto un nome, Settimo. Era il segnale. In pochi attimi l'aula fu come invasa da aeroplani di carta che volteggiavano fra incitamenti e grida di giubilo. La maestra non fece in tempo a riaversi dallo sconcerto che la porta si aprì. Alla vista del direttore, un uomo sui 40 anni, con baffi ed occhiali, appena nominato, la classe si ricompose. L'unico aereo ancora in circolazione, firmato Settimo, andò proprio a impigliarsi nei suoi capelli. L'insolito atterraggio fu accompagnato da una risata generale. Il direttore si sfilò il jet dai capelli sull'aereo. Oltre al proprio nome, il capobanda aveva disegnato un pallone e la maglia della Juve. «Spezzapan, seguimi in direzione!» Il ragazzo uscì dal posto con la convinzione di averla combinata davvero grossa. L'atteggiamento fermo e risoluto del direttore ne era la prova. Mentre gli camminava accanto, Settimo notò che da una tasca della giacca del superiore fuoriusciva la coda dell'aereo. Ebbe per un attimo la tentazione di riprendersi il velivolo, lo dissuase semplicemente il timore di guadagnarsi, oltre ad una probabile sospensione, anche un ceffone. Rientrato in ufficio, il direttore si sedette alla scrivania, mentre Settimo, fatto accomodare dall'altra parte del tavolo, attendeva mogio mogio il proprio verdetto. «Allora, Spezzapan, che intenzioni hai? Di lavorare o di disturbare? Pensi che la scuola sia un parco per divertimenti? Vuoi finire anche tu nella città dei balocchi, con il rischio che ti crescano le orecchie d'asino come Pinocchio?» Il direttore guardò negli occhi il ragazzo, sperando di cogliervi qualche segnale. In realtà, la mente di Settimo stava seguendo altri percorsi. «Vedo che sei così bravo nel costruire aerei», osservò il direttore, assumendo toni e modi più convincenti. «Ti piacerebbe un giorno guidarne uno per davvero?» Settimo annuì con la testa. «Ricordati però», riprese il direttore, «che per diventare un bravo pilota bisogna studiare molto. Devi saper far di calcolo, conoscere le lingue e la geografia. E nel dire questo si sfilò di tasca l'aereo del ragazzo. Bello, per davvero, annotò il direttore mentre lo posava sulla scrivania dopo averlo stirato un poco con le mani. Mi insegni a costruirne uno? Prese dalla scrivania due fogli, uno per sé e uno per il ragazzo. Il settimo si schermì, esitò, poi sollecitato dal direttore, gli insegnò come fare. Il direttore seguì attentamente le istruzioni del ragazzo, piegando e modellando a sua volta il proprio foglio, che si trasformò nel giro di qualche minuto in un aereo vero e proprio. Dopo averlo impugnato e bilanciato, lanciò per la stanza, lo raccolse e lo rilanciò, imprimendo al velivolo una maggiore stabilità. Altrettanto fece Settimo con il suo senza più alcuna riserva. Ed ora vediamo chi di noi due, propose il direttore, riesce a farlo volare il più lontano possibile. Se vinco io, tu mi devi promettere che d'ora in poi ti impegnerai per diventare un pilota. Se vinci tu, tolgo la punizione che ti sei procurato. Seguì la gara con tiri effettuati dalla finestra. Alla fine, su tre lanci stabiliti a testa, prevalse il direttore. «Ritorna pure in classe», disse il superiore dopo che Settimo ebbe recuperato gli aerei. Il ragazzo fece il suo rientro in aula, gasato e ricaricato più che mai. Il cambiamento scolastico di Settimo non fu immediato, ma la stima, l'amicizia e la fiducia che il direttore gli aveva dimostrato diedero ben presto i loro frutti. Incominciò a prendere seriamente gusto per la scuola, anzi, divenne per i compagni un esempio positivo e trascinante. Ma torniamo al direttore. Dopo che il ragazzo fu uscito, accadde qualcosa di veramente insolito. Rimasto da solo in ufficio, il direttore non esitò a concedersi qualche momento di autentico svago ed, afferrati gli aerei che stavano posati sulla scrivania, li lanciò a ripetizione per la stanza. Era come se si fosse verificata in lui una vera e propria metamorfosi, l'uomo adulto che per qualche motivo cedeva il posto al fanciullo. Si stava cimentando nella costruzione di un altro apparecchio. Gli apprendimenti vanno messi in pratica finché sono freschi. Quando udì bussare alla porta, all'apparizione della bidella che gli stava portando la posta, il direttore si ricompose, ma non sfuggì alla commessa alla vista dei vari jet sul pavimento. «Se le piacciono, li tenga», disse il superiore, «li dia ai suoi bambini». La commessa sorrise incredula, poi, dietro insistenza del capo, raccolse gli aerei e se li mise in tasca. Peccato, pensò il direttore. Mentre la bidella se ne andava, mi ci stavo veramente divertendo. Allora, niente, adesso Antonio, noi ascoltiamo un'altra canzone e poi avremo al telefono il nostro signor Donato Marinello. Allora, la seconda canzone in programma, diamo un saluto alla primavera che fra poco se ne andrà. Quindi ci ascoltiamo da Banisa Sannia, La primavera. L'inverno se ne va, tutto quel tempo lontano da te, la primavera è qua. Son ritornate nel cuore due rose, son come dolci carezze d'amore. passo lieve mi vieni vicino, tra i verdi prati, tra gli alberi in fiore, è come un sogno il tuo bacio d'amore, la primavera, il tuo volto, il tuo cuore, la primavera, un sorriso d'amore. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono il signor Marinello Donato. Buonasera, signor Marinello. Eccomi qua. Buonasera. Ben trovato. Buonasera. Come sta? Io sto bene. Sì. Qui sono in montagna dove respiro aria buona, salubre. Ah. E quindi diciamo. Dov'è? A Brentonico? Bene. Sono a Brentonico. Ah, ecco, ecco, sopra, ecco. Sopra Rovereto, da queste parti qua. Ecco. Bene. Allora, ascoltato il primo racconto? Sì. Ho già ascoltato e. E in effetti io in questo racconto mi ci rivedo, in quanto anch'io ho insegnato prima alle elementari e poi alle medie. Però a dire il vero mi sono trovato meglio alle elementari, perché avevo a che fare con dei bambini, cioè che hanno un'anima più immediata, genuina, rispetto invece ai ragazzini delle medie, che incominciano, come dire, ad avere dei grilli per la testa e non essere più, cioè praticamente le medie, i ragazzini delle medie hanno scavalcato quella zona d'ombra di cui parla Conrad, no? Giusto. Ecco, non sono più in quel mondo incantato fatto di fantasia eccetera, ma sono già in un altro mondo, sono già entrati, insomma, ecco. Quindi allora, dica. Ecco, no, adesso volevo dirle questo, che intanto che prima l'abbiamo salutata, adesso, no? Adesso sì, noi leggiamo il racconto Giochi antichi, no? Sì, certo. E poi lei ce ne parlerà più dettagliatamente. Certo, sì. Ma era possibile, se non lo so, se il tempo lo consente, che magari spendevo due parole sul racconto, sul contenuto del racconto. Sì, sì, sì, faccia. Ecco, non so, proprio due parole. Ecco, e volevo farvi presente, farvi notare come il direttore si comporta nei confronti di Spezzapane. Nel senso che lui si rende conto che bisogna muovere dai reali interessi di questo ragazzo, no? Far breccia sui suoi interessi per poterlo poi, come dire, spingere, spronare allo studio, no? Sì. Ecco, ed è un po' quello che ho fatto io nella scuola, no? Dove ho portato un po' la mia attività di persona abituata a costruire, a fare, eccetera, eccetera, no? Ecco, e l'ho, come dire, portato nella scuola per aiutare i bambini in difficoltà, che non avevano molta simpatia per lo studio, a recuperare questa voglia, ma attraverso la manualità. Ecco, attraverso le attività manuali ed espressive. Ad esempio io a Milano ho seguito dei corsi anche di formazione nella costruzione di burattini, del teatrino con i burattini, delle ombre cinesi, no? Ecco, Allora io qualche volta, quando avevo la possibilità, il tempo me lo consentiva, portavo i miei alunni giù nel laboratorio e cercavamo di realizzare, ad esempio, non so, dei burattini per poi realizzare con questi burattini delle scenette, no? Lo scopo qual era? Era quello di recuperare soprattutto i bambini, ad esempio, timidi, che non avevano molta voglia di studiare e quindi riuscivano ad esprimersi attraverso appunto le attività manuali ed espressive. Una volta era molto di moda il teatrino dei burattini. Sì, era molto di moda, ecco, io avendo fatto questa esperienza, no? A Milano, poi dopo aver vinto il concorso magistrale, io questa esperienza me la sono portata con me e l'ho, come dire, applicata. Sì. Questo me ne sono servito per aiutare i bambini, appunto, sì. I bambini in difficoltà. È una cosa fondamentale, credo, questa, la manualità, la creatività, eccetera, possono dare espressioni a delle personalità che sono ancora magari chiuse o cose di questo tipo. Comunque mi è piaciuto. Perché noi siamo fatti di mente e di mano. Certo. Nel senso che, esatto, chiaramente i grandi geni, come anche Buonarroti è riuscito ad assurgere ai livelli che conosciamo grazie al fatto che lui aveva in mente la statua nel marmo, no? però per poterla tirare fuori dal marmo ho dovuto usare il mazzuolo, no? Ma chiaramente per poter usare il mazzuolo bisogna avere le mani, quindi sì. Diciamo, siamo fatti di mente e mano, bisogna tener conto nella scuola che di questi due componenti, no? Che spesso si dimentica, dimentica la manualità, infatti, no? Invece è fondamentale. Comunque mi è piaciuto molto questa figura del direttore, mi è piaciuta moltissimo. Vabbè, io ho scritto anche un libro, La banda dei tubi volanti, infatti l'ho ricavata un po' da questo, poi io l'ho integrata, l'ho ampliata questa figura, no? In un racconto, no? Appunto, volare alto. Ma è simpatico, un racconto simpaticissimo. Sì. Adesso noi leggeremmo l'altro racconto, sì. Poi torniamo un attimo, e dopo ascoltiamo una canzone e poi lei ci parlerà dettagliatamente dei giochi. Certo, ecco, certo. Adesso lei ci ascolti intanto. Sì, certo. Mi scusi se gli ho rubato un po' no, di tempo. No, va benissimo la puntualizzazione, esatto. Non si preoccupi. Va bene. Allora, giochi antichi e moderni. Non passa molto tempo che i miei nipotini, rispettivamente di 7 e 9 anni, non mi mostrino, raggianti di gioia, l'ultimo gioco che gli è stato regalato. L'altro giorno faccio appena in tempo a entrare in casa dei consuoceri che mi vedo venire incontro un veloce raptor, alto mezzo metro, neanche fosse vero, con i gatti che fuggono di gran carriera davanti alla minacciosa avanzata del dinosauro. «Non aver paura, nonno», mi fa Samuele, tutto preso in quel momento dal suo ruolo di manovratore. «È finto!» «Posso provarlo anch'io?» chiedo a Samuele. «Va bene», mi rispose esitante il nipote, mentre mi cede il telecomando, «ma solo una volta!» Intanto Susanna mi compare davanti con una bambola delle Winx, grande quasi quanto lei. «Si chiama Bloom», precisa, orgogliosa, la nipote. «Non pensavo», puntualizzo, scherzando, «che tu avessi un'altra sorella». «Ora basta, nonno», mi intima Samuele, e si riprende il telecomando. Come dire che mi sono divertito troppo. I nipoti mi mostrano molti altri giocattoli, questa volta portati da Babbo Natale. Un'astronave sparagommini, una macchinina telecomandata, una bambola parlante, eccetera, eccetera. La loro cameretta rigurgita di giochi. Come sono cambiati i tempi, penso tra me. Una volta, parlo di 50 anni fa, per divertirci ci bastava poco o nulla. Qualunque cosa ci capitasse a tiro si trasformava nelle nostre mani in un attrezzo da gioco, come ad esempio un cerchione di bicicletta o una carriola. Un pezzettino di legno ed un po' di fantasia e questo bastoncino poteva diventare un aereo, una canoa, una pistola a spara elastici, un bindecche. Gioco quest'ultimo con il quale passavamo ore e ore. In pratica si prendeva un legnetto della lunghezza di 10-15 centimetri, lo si appuntiva all'estremità, poi con un bastone lo si colpiva su una punta, facendolo roteare in aria. Quindi con lo stesso bastone lo si riagganciava al volo, scagliandolo lontano. Vinceva naturalmente chi riusciva a mandarlo il più distante possibile. Due barattoli ed un lungo pezzo di spago per collegarli, tenuto bello teso, ed avevamo un rudimentale telefono. Con un ramo biforcuto, un elastico e un pezzettino di cuoio ci costruivammo una fionda. Non ha importanza se poi, sbagliando mira, finivamo per colpire il vetro di una finestra o un lampione o tornavamo a casa con la testa piena di bernoccoli. Anche questo faceva parte del gioco. Non c'era bambino che non possedesse, infilati nella cintola, un pugnale o una spada di legno. Ci servivano nel caso in cui fossimo stati sfidati a duello o per respingere l'assalto di bande nemiche. Anche a scuola, durante la ricreazione, sguainavamo ad un tratto la spada e al grido di «In guardia!» affrontavamo, novelli moschettieri, gli avversari in vere e proprie scaramucce. Fra le armi giocattolo c'erano le cosiddette pistole sparaelastici. Le impiegavamo principalmente nei confronti delle bambine. Io mi ero perfino costruito per una bandoliera di cartone con tanto di fondine per le pistole, che indossavo ogni giorno sotto il grembiule prima di recarmi a scuola. Il sistema era sì ingegnoso, ma vulnerabile. Me ne resi conto quando, capitato nel bel mezzo di un temporale, corsi il rischio di perdere, insieme alla cartucciera, pure le pistole. Anche le bambine, tranne qualche rara bambola di pezza ricevuta in regalo, imparavano ben presto a ingegnarsi. ritagli di stoffa si trasformavano ben presto nelle loro mani in bambole o pupazzi, riempiti di stracci o di segatura, che con l'aggiunta di un cartone trasformato in un castello diventavano gli eroi ed i protagonisti di storie ambientate in un magico mondo da loro stesso inventato. Come erano naturali e corpose le bambole di allora, se paragonate con le Barbie o le Wins, magre e anoressiche. No, no, mi fa Samuele, distogliendomi dai miei pensieri. Ancora ti piace vedere un po' di PlayStation? E sul monitor, già illuminato, compare una macchina da corsa che inizia a sfrecciare lungo un rettilineo per poi affrontare una serie di curve e controcurve, rondò, tunnel e quant'altro, lungo un percorso degno di una Formula 1. Gli sbandamenti e gli errori compiuti dalle vetture sono minimi. Comodamente seduto su un divano, l'aria seria e concentrata, il nipotino schiaccia ora questo, ora quel pulsante, rivelando doti di pilota, neanche avesse fra le mani il volante di una macchina vera. Mentre seguo la vettura nella sua mirabilante corsa, mi giungono le note di una deliziosa canzoncina. È una bambola delle Wings, che Susanna ha schiacciato un pulsante nascosto sotto l'abito. Sono i prodigi dell'elettronica, ma nei nostri nipoti, né tanto meno i loro figli, potranno mai conoscere le esperienze forti, vive e dirette vissute dai nostri tempi, quando si guidava un carrettino costruito da noi o quando si giocava a cavalletta nel cortile della scuola, a rischio di ritrovarsi con qualche vertebra fuori posto, o peggio ancora, quando nelle lotte campali fra bande non era da escludere l'eventualità di rimanere colpiti da frecce ottenute con le stecche degli ombrelli. Che male. I nostri erano giochi indubbiamente rudi, rischiosi, ma emozionanti. Si tornava spesso a casa acconciati da buttar via, con la faccia graffiata, con le ginocchia sbucciate o con un occhio pesto, ma ci si guardava bene da lamentarsi, perché altrimenti rischiavamo di prenderne di più dai nostri genitori. Eppure eravamo contenti, così siamo cresciuti, robusti, sempre in compagnia, all'aria aperta, anche d'inverno. Mai tristi e annoiati, come invece succede a tanti bambini di adesso, costretti a vivere spesso soli in ambienti ristretti ed asfittici, condannati a compiere l'unico gesto possibile, schiacciare dei pulsanti. Sta per affermarsi, o forse è già nata, la generazione dei pollicioni? Ecco. È un quesito abbastanza importante. Ecco, qui abbiamo tutti i giochi di una volta. Importante però... e inquietante. Inquietante, sì, ecco, sì, forse sì. È più ancora pertinente questa. Però prima di dare la parola a lei, ci ascoltiamo un'altra canzone, la terza canzone. Ecco, Antonio, ti piace il ciuffo? Bah, diciamo di sì, dai. Ecco, ma a Little Tony piaceva e quindi ci ascoltiamo dalla sua voce Il ragazzo col ciuffo. Mi han detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo, mi han detto che ti piacciono i tipi come me, ed io mi sono fatto crescere i capelli per farmi guardare da te. Adesso ridono di questo mio ciuffo, i miei capelli a spazzola non ho più per te, perché ho voluto amore farti una sorpresa e averti ogni giorno per me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ed ora che ho ciuffo sulla fronte, quante vorrebbero parlarmi d'amore, tu invece cara fai l'indifferente e non riesco a conquistarti ancora. Yeah, yeah. Mi han detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo, detto che ti piacciono i tipi come me, adesso perché ridi dei miei capelli lunghi e non vuoi più saperne di me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. sulla fronte. Quante vorrebbero parlarmi d'amore, tu invece cara fai l'indifferente e non riesco a conquistarti ancora. Yeah, yeah. Mi ha detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo, mi ha detto che ti piacciono i tipi come me. Adesso perché ridi dei miei capelli lunghi e non vuoi più saperne di me. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale lasciamo la parola. Sì. Allora, quanti giochi antichi? Sì, appunto, perché veniamo, come anche lei e il suo collaboratore, veniamo da quell'epoca dove si costruiva i giochi con le proprie mani. Assolutamente vero, ecco, sì. Ecco, a differenza dei bambini del giorno d'oggi, e l'ho visto nei miei nipoti, dove si usa i videogame, la PlayStation, queste bambole parlanti, poi con un telecomando riesci a guidare una piccola auto, un aereo, eccetera, eccetera. Però questi qua sono giochi, come dire, presentano ovviamente degli svantaggi per il bambino, tipo, a parte la difficoltà anche di comprenderli, no? Poi la posizione che si assume per usarli questi giochi, cioè da seduto, semplicemente da seduto, no? Quindi, perché si entra con questi giochi nella cosiddetta realtà virtuale, no? Non è un qualche cosa che vivi direttamente. Poi alla fine cosa fai? Quando non funzionano più li getti, no? Perché oltretutto che sono stati comprati, no? Che sono per cari, quali... poi. Sì. Come? Che sono carissimi. E sono carissimi, no? Ecco, e alla fine li butti via, no? Ecco, quindi davanti a questi giochi il bambino, il ragazzo, come si presenta? Non più, non come un attore, no? Uno che i giochi si ricostruissero, come facevamo noi una volta da bambini, no? Ma un semplice, come dire, fruitore, uno spettatore. E basta, ecco. Quindi... quindi i tempi sono cambiati, sono praticamente i tempi di adesso, i tempi in cui vive il bambino di oggi, sono lontani anni luce dai nostri tempi, no? Più dinamici, ecco, erano, esatto. Certo, quando allora c'era appunto il fai da te del giocattolo, no? Te lo costruivi tu con le tue mani, no? E poi e non costava niente, perché bastava semplicemente utilizzare un po' di materiale di scarto. Quali, ad esempio, per costruirsi ad esempio un carrellotto, no? Bastavano quattro cuscinetti a sfera, due assi, e avevi già un piano su cui sederti e dietro su cui appoggiare la schiena, un'altra asse. Questi giochi, questo tipo di giochi che ci si costruiva con le proprie mani, richiedevano che cosa? La conoscenza e l'uso degli attrezzi, no? Praticamente tu imparavi ad usare sì, martello, sì. La tenaglia, la pinza, eccetera. Ecco, e quindi questo ti come dire, favoriva la manualità. Poi, ad esempio, questo poi alla fine si ripercuoteva in un grosso risparmio di soldi per i genitori, no? Che non guastava, chiaramente. Però io ritengo che più che altro si facevano in campagna queste cose, perché in città non credo che ci fosse la possibilità di costruirsi dei giocattoli. Però signora, io mi ricordo quando sono arrivato a Milano, ma anche un paio di decenni dopo, quindi siamo negli anni 70, quasi 80 così, io mi ricordo di aver visto in periferia a Milano, non nel centro chiaramente, no? Dei ragazzini che giocavano con dei carrellotti, con delle macchinine, piccole Ferrari così costruite alla buona, ecco, in cui c'era uno seduto e un altro che faceva da pilota e un altro dietro che invece fungeva da spingitore, no? Spingeva questo bambino. Mm-hmm. Io mi ricordo che questa, e poi ad esempio il fatto di camminare sui trampoli, ad esempio, sì. No? Io ho imparato e ho insegnato anche ai bambini, tuttora quando ad esempio mi chiamano in qualche, ad esempio qui a Brentonico qua, queste usanze, queste abitudini, bene o male, nelle sagre, in certe occasioni, si sono mantenute, no? Per cui a volte mi chiamano per organizzare questi giochi ancora. Chiaro che ormai qui tutti i giochi, come dire, elettronici la fanno da padrone ormai anche qui nei paesi, però bene o male un po' di quelle tradizioni si sono conservate. Ecco, ma per esempio cosa costruivate? Dei carrettini? Carrettini, io ad esempio ho scritto anche un libro su questo argomento, edito dalla casa editrice Meravigli, no? Sì. E si intitola Il fai da te dei giochi, sottotitolo Quando Robinson si diverte, no? Ah. Ecco. E si è ispirato al racconto qui, ecco, volare appunto, alto? Credo, nel senso che io ho letto il libro, no? Le avventure di Robinson Crusoe, no? Ecco, il quale ovviamente nell'isola in cui si è ritrovato a vivere da solo doveva pure anche ricrearsi qualche momento di divertimento, di gioco. E allora si costruiva da sé anche qualche diversivo, qualche gioco, insomma, no? E allora, ispirandomi a questa figura, io ho scritto un libro, appunto edito dalla Meraviglia, dal titolo Il fai da te di giochi, quando Robinson si diverte, no? Ecco, allora, io ho, diciamo, in questo libretto, ho, diciamo, illustrato i vari passaggi di costruzione di queste macchine che ci facevamo noi una volta da bambini. Ecco, tipo, non so, per dire, monopattini, carrellotti, piccole Ferrari, che ne so, altri tipi di giochi. Questi, diciamo, il libro si divide in due parti: giochi mobili, che sono questi che vi ho descritto adesso, e giochi fissi, no? Che sono dei, non so, per dire, dinosauri, cavalloni, motociclette, fatti quei copertoni invece, no? Sì. Ecco, queste sono maxi strutture che ho realizzato, non so, alcune le ho realizzate nel parco di Monza, vicino a Milano, poi altri a Muggiò, in vari posti. È chiaro, adesso ormai sono passati molti anni, non li costruisco più, no? Però anche questi erano giochi che, ecco, e qual è il vantaggio? Che tu, anziché buttare via il materiale, lo recuperi, lo ricicli, no? Riciclava, e lo trasformi in un gioco. Esatto. Ecco, quindi questo... Sì, ma i ragazzi di adesso non li vorrebbero neanche vedere queste cose qua? No, invece, ad esempio, quando io mi propongo come animatore di giochi antichi, per i ragazzini che sono abituati a mantenere una posizione da seduti, io li chiamo così, no? Con tanto poi di pollice, sempre col dito, quello sempre usato, loro invece li desiderano, si divertono. Ad esempio qui a Brentonico, adesso fra qualche giorno, sarò chiamato ad animare un gruppo di bambini bielorussi, sì, no? Che sono ospiti di famiglie, famiglie qui di Brentonico, e già l'anno scorso ho organizzato per loro una giornata di animazione con le mie macchinine, no? Trampoli, eccetera, eccetera. Macchinine fatte da lei? Fatte da me, sì. Ecco, che a volte però costruisco con i ragazzi, se mi capita, no? Per far vedere come avviene la costruzione del giocattolo, no? Ecco, del manufatto, che si può usare, non è un semplice macchinina da tavolino, cioè così, ma è un proprio, è lunga un metro, larga 40 centimetri, però. Con tanto di cinghie fissate al semiasse anteriore per manovrarla, questa macchinina, per usarla. Sì. Ma proprio è grande, sì. E quindi, diciamo, alla fine, ecco, e loro ho notato che si divertono moltissimo, perché è un momento per loro, come dicevo lì nel racconto, che spesso vivono la loro vita in questi ambienti angusti, soprattutto nelle città, di libera espressione del loro certo, corpo, di potersi scatenare, di correre. Sì. Quindi poi oltretutto queste macchinine realizzate con i cuscinetti a sfera producono un rumore rombante, no? Sull'asfalto. Richiamano le vere macchine, praticamente. Le vere macchine da corsa. Adesso ci sono le PlayStation. Con le PlayStation, sì. Mamma mia. No, il fatto che giustamente però... questo essere attori anziché spettatori, che è fondamentale. Ecco. Certo, c'è un termine in latino, ecco, che poi dopo è stato usato solo per indicare il fabbro, no? Che il latino è faber, no? Esatto. Cioè costruttore di giochi da sé, no? Sì. Con le proprie mani, faber, ecco. Ecco, purtroppo questo termine ormai non esiste più, o quasi, fra i bambini. E anche io sto portando avanti disperatamente, il mio tentativo è quello di mantenere viva, diciamo, e tenace questa tradizione. faccio bene o no? Assolutamente, no, è una cosa meritoria, tassativamente. E anche le bambine facevano le bambole di pezza, si costruivano, certo. Le facevano i vestitini, sì. E adesso invece hanno le bambole, poi gli comprano i vestitini, gli comprano... Sì, certo. Insomma, E io, signora Gesmina, le dirò di più, io mi ricordo, ma non si faceva ai miei tempi, ancora prima però, forse ai primi del Novecento, io l'ho visto su un libretto di giochi, le bambole le facevano anche con i cartocci delle pannocchie. Sì, eh sì, sì, esatto, sì. Esatto. E questo me lo ricordo anch'io, no? Perché, ma ho vissuto anch'io in campagna, per cui sì. Ricordo veramente tutte queste cose, ecco. E poi, preparavano le bambine facevano tante cose, imparavano anche a farsi, non so, anche le lenzuola. Cominciavano a 11-12 anni, cominciavano già a ricamarsi le lenzuola. Per il corredo. Ecco la manualità, mi scusate se mi interrompo. Ecco la manualità che poi è stata dimenticata nella scuola, nel senso che colpevolmente. Mia madre, ad esempio, mi ricordo che c'era allora l'ora di, non so se di cucito, insomma, lavoravano a maglia, ma che ne so, cioè... La manualità, sì, sì, il lavoro a mano, sì, sì, anche il lavoro a ferri, sì, il lavoro a ferri, eccetera, e anche quel discorso di di dare alle singole letterine, quando si scrivevano, si imparava a scrivere, no? Un tocco di arte, di quel lavoro di, ecco, la calligrafia, no? Sì. Poi chiaramente adesso è praticamente scomparsa. Adesso è arrivato il computer, no? Che da un lato ha portato dei vantaggi, ad esempio io tutti i miei racconti li scrivo col computer, però voglio dire, bisognerebbe comunque mantenere giusto anche la manualità nella scrittura, esatto. Ecco, ma quindi, difatti, io ho il computer, però i miei appunti, quelli più importanti, me li scrivo a mano. Non perché altrimenti sì, si fa più presto a mano, invece col computer sì, per carità. Sì, certo, il computer. Comunque io poi ho elaborato anche a contatto con altri amici provenienti da altre esperienze, altri tipi di giochi nel frattempo, perché ovviamente io ho fatto i giochi che anche voi avete fatto dalle mie parti, no? Che si facevano, eccetera, però a contatto con altri animatori nel milanese poi ho perfezionato un po' questo mondo, no? So, per dire, ho imparato ad esempio a realizzare, posso fare qualche esempio? Sì, diciamo, sì, prego, prego. Di manufatto, ad esempio il bastone della pioggia, no? Che non facevo. Il bastone della pioggia in pratica è un tubo di cartone, no? Che tu riempi di ghiaia o di sassolini e poi lo chiudi anche dall'altra parte e poi, capovolgendolo lentamente, tu riproduci il rumore della pioggia. Ah, no? Sì. È vero, oppure sì. Oppure dall'altra sì. parte... Quindi serve anche per in determinati, non so, quando si recita o un teatrino o altro, che ci sono dei momenti in cui bisogna... allora in questo caso dietro le quinte c'è chi lo usa questo bastone della pioggia, no? Ecco, che ne so, poi la cerbotana, per dire, vabbè, quella la usavamo anche noi, bastone di bambù. All'epoca, sì. Ecco, la famosa cerbotana che c'è nel racconto. È un mondo che bisogna, secondo me, non bisogna farlo scomparire. No. Ma lei, signor Mariello, si ricorda che ai nostri tempi facevano anche i giochi di società, non so, per esempio quando si radunavano, non so, in stalla oppure facevano filò, i giochi di società, sì, al filò. Beh, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi ne parliamo. D'accordo, ecco. Sì, allora Iva Zanicchi ci canterà Fra noi. Cedi, non avevi Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, signor Marinello. Sì, sì. Eccoci qua. Lei si ricorda di, così, nelle serate di Filò, che si facevano i giochi di società? Sì, sì, mi ricordo quando ci si riuniva appunto nelle stalle, ecco, e poi... Ma anche nelle case. Nelle case, ecco, e si giocava ai giochi più tipo di società, giochi fatti. Sì, c'era il gioco dei proverbi, il gioco dell'anello, c'erano tantissimi giochi. Certo, un gioco che ad esempio mia madre ci faceva, eravamo allora in 6 o 7 fratelli, no? Uno è morto durante la guerra, ecco, eravamo in 6, e era quello di, come si dice, di prendere un mucchietto, un po' di crusca, no? Ecco, e dentro ci metteva delle monetine, no? Di una lira, un, così pochi, non so, un centesimo, beh. Poi dopo si mescolava questa polenta, la suddivideva poi in tanti mucchietti quanti eravamo noi fratelli, e poi dopo ci invitava a entrare dentro, a frugare nella farina per vedere se chi di noi era stato fortunato nel cosa aveva trovato. Sì, beh, una specie di quello che pensavo, che dicevo io, quello dell'anello, sì. Che era un... E poi si gioca... Ecco, sai cosa a me manca proprio? Sentire i bambini giocare nelle piazze dei paesi. Ecco, adesso certo. Non c'è più questa cosa qua. Sì, sì. Infatti io mi ricordo il gioco del nascondino. Del nascondino, sì. Ecco, poi guerre e ladri... che ne so, ecco, giochi che si facevano all'aria aperta, chiaramente adesso, essendo scomparso anche il cortile, no? Ecco, fortunatamente io abito a Milano in una casa di ringhiera, no? Famose case di ringhiera. Cioè, ecco, con diciamo con questa costruzione che come si chiama, che si affaccia su 3 lati, sì. Su un cortile interno, no? Sì. E quindi a volte vedo ancora dei bambini che verso, non so, le 3 o 4 o 5 del pomeriggio vanno giù e giocano appunto a sì. E fanno i giochi da cortile, insomma. Sì, ma una volta invece proprio giocavano nelle piazze, ricordo anch'io quando ero bambina che giocavo nelle piazze, sì. Del paese, si facevano tanti giochi, e adesso, sì, invece, sì. Nelle piazze del paese non senti più queste, certo. Cose. Queste, ma, cose. Ad esempio, giochi all'aria aperta, mi ricordo anche lungo le strade, ad esempio quello di saltare cavalcare i paracari. Ah, sì. oppure tu stesso diventavi un paracaro, il compagno ti scavalcava, ti superava, dopodiché tu ti accucciavi e a sua volta il compagno scavalcava te, no? Tutta poi... una serie, eccetera, di, ecco, dica. Poi si ricorda il gioco della carighetta. Che in due mettevano insieme le mani, mettevano le mani a forma di seggiolina, e uno si sedeva sopra e lo portavano in giro. Ah, ecco, non so, ricordi. Si ricorda? Sì, sì, lo chiamavano il gioco, certo. Della carighetta. D'accordo. Poi un gioco, mi ricordo, molto, diciamo, virile, rude, ecco, a dir poco, era quello della cavalletta. Ah sì, che ci giocavano nelle scuole, nei cortili delle scuole, a rischio di ritornare a casa con qualche vertebra inclinata. E che cos'è la cavalletta? La cavalletta in pratica, c'era uno che si metteva accostato al muro, no? Ecco, con la faccia davanti, ecco, poi tutti i suoi compagni, cioè un aumento, metà classe praticamente, si mettevano in posizione, diciamo, con la schiena allungata, gambe, cioè ovviamente le gambe fino all'anca, fino al sedere, in piedi, e poi con la schiena, e poi ognuno agganciava il proprio compagno all'altezza del sedere in modo da formare una lunga cavalletta. Oh, no? Sì, ecco, no, questa non me lo ricordo. Tutti curvi, tutti quanti così, eccetera. Poi chiaramente la squadra avversaria, ciascuno della squadra avversaria doveva, partendo da una certa distanza, doveva saltare sulla cavalletta, no? Ah. È chiaro che il primo però doveva fare, ovviamente quello con le gambe più lunghe, doveva fare un balzo tale da portarsi quasi vicino alla persona che stava in piedi accostata al muro, no? In modo da offrire spazio agli altri per saltare sulla cavalletta, no? Era un gioco pericoloso. Però se a un certo punto il primo non faceva un balzo tale da arrivare fino a chi stava lì, che faceva un po' da supporto, no? Ecco, tutti gli altri correvano il rischio di saltare sulla groppa dello stesso. Sì, era pericoloso. Quello al centro, per cui alla fine succedeva che magari soprattutto se era uno dal fisico un po' gracile, Mingerlino, non forte, ben robusto, correva il rischio di ritrovarsi veramente con qualche osso fuori posto. E dopo giocavano anche a stella, che non mi sì, pare. Poi un altro gioco era il gioco che, non so, lì in provincia di Rovigo mi ricordo che si diceva il gioco del bindecche. Cos'è? È il gioco del bindecche, che poi a Milano ho saputo, quando mi sono trasferito a Milano, si chiamava la lippa. La lippa, no? Famosa, sì. In pratica era il pito un legnetto dalle nostre parti, sì. Rastremato alle estremità, cioè praticamente appuntito alle estremità. Sì. È un legnetto lungo circa 20 centimetri, ma neanche. Dopodiché lo si metteva su un rialzo, no? Poi con la punta un po' in fuori. Dopodiché prendevi un legno, un bastoncino, e colpivi ovviamente questo sulla punta, in questo modo facendolo roteare, e mentre questo roteava in aria, tu lo colpivi e lo lanciavi lontano. Ah. No? Poi chiaramente vinceva chi lo aveva lanciato il più lontano possibile, sì, in vinceva, modo certo. Si calcolava. Con i propri passi, no? Si vedeva e alla fine vinceva chi lo aveva mandato il più lontano possibile, insomma, ecco. Poi si giocava anche ai birilli, almeno io giocavo ai birilli. Non anche so... ai birilli, sì. Sì. Chi colpiva, chi non riusciva a buttare, o chi riusciva a buttarli giù, adesso non mi ricordo più. O le biglie di vetro. Anche le biglie di vetro. Baete, le fragna. Ecco, le famose biglie, ma non erano di vetro, mi ricordo. Erano di fragna anche. Terracotta, sì, cos'erano? Erano di terracotta. Di terracotta, sì, esatto. E lì c'era una, come dire, c'era la famosa buca, no? Sì. Ecco, poi ognuno aveva il suo gruppo, pugnetto di biglie, e doveva mandarlo in buca, e chiaramente praticamente prendeva tutte le biglie dei compagni, chi per ultimo riusciva a mandare in buca la propria. Io ricordo che ce n'erano di piccolissime, di più grandi ancora, sì, e c'erano diverse forme. C'erano diverse, sì, diverse diversi tipi. Adesso non so se giocheranno ancora a biglie, penso proprio di no. A biglie, no, io non ne ho più visti, no. Non ho più visti giocare. I bambini adesso chiaramente sono tutti, come dicevo prima, tutti interessati a giochi elettronici, a queste cose qui, insomma. Oggi secondo me i bambini non si divertono più come una volta. Non si divertono più come una volta. No, assolutamente. No, no. Cioè, queste novità della tecnologia, per carità, però... Cioè, tendono a essere uno spettatore abbastanza passivo, diciamo. Rimane passivo davanti a questi giochi. Io ripeto, quando porto le mie macchinine in qualche sagra, in qualche paese qua vicino o a Brentonico, dove ho organizzato questa mia attività per un paio d'anni, ecco, ho visto che c'è stato un grande... Tant'è vero che delle mamme poi si sono lamentate con qui con l'amministrazione comunale, perché questi giochi poi l'anno successivo non si sono ripetuti, no? E allora cosa ha detto? C'è il patto di stabilità, c'è il spending review, non si può sforare, non si può tutte, insomma, e alla fine loro erano quasi disposte a, come dire, a tirare fuori, finanziare di tasca propria, ecco, quantomeno per un rimborso spese, certo, che io certo. chiedo, perché io ci metto passione, amore. Beh, certo, quando ci si mette passione. Certo, non sono lì uno che, cioè, però insomma, quantomeno. Certo. E loro però, il problema degli spazi, cioè alla fine dicevano, ma non sappiamo, ci sono le macchine qua e là, ma possibile, dico, se vedete che questi giochi hanno fatto così tanta presa, no? Sui ragazzini, trovare spazi a Conci. Anche il gioco della cuccagna c'era nelle sagre, mi ricordo il gioco quando si metteva in alto lì un coniglio, una gallina, dovevano salire dei salami, ecco, e dovevano... adesso lei me ne sta adesso, io ho parlato di giochi che conosco, ma lei me ne sta adesso sfiorinando. Io ho giocato tanto da bambina, da ragazza, insomma, fino a 18 anni io ho giocato. Ci si divertiva con poco, questo era. Io la vedo bene, signora Gesuina, lei da bambina che si divertiva. E ho tanto saltato alla corda. Alla corda, era anche birichina. Comunque ho giocato parecchio e questi era giochi... Corda, mi ricordo, quando insegnavo all'elementare a Bollate, io ho insegnato... tanti anni a Bollate, no? In una scuola elementare. Sì. Ricordo che le mie alunne durante l'intervallo giocavano all'elastico. No, io quello non ho mai giocato. Era un elastico praticamente che veniva fra due ragazzine distanti, non so, due metri tra di loro, veniva, diciamo, sistemato intorno alle gambe di queste ragazzine, di queste bambine, e poi le altre dovevano scavalcare l'elastico, saltare dentro fuori dell'elastico. Ma era un po' pericoloso. Poi l'elastico veniva alzato di 10 centimetri, per dire, no? Intorno sempre al corpo di queste bambine. E poi le altre dovevano sempre saltare avanti, dentro, fuori. Ma noi lo facevamo con la corda, invece, questo, con una corda da fune, insomma, ecco. Quello è il gioco della fune. Abbiamo giocato tanto, sì, anche quello lì, che era bellissimo. Caso. E poi anche quando... da noi a Mantova veniva spesso la neve d'inverno, facevamo gli stampi nella neve. Ah, gli stampi della neve. Ci buttavamo sulla neve e ci restava tutto lo stampo del nostro corpo. Ah, bello, cioè praticamente il contatto diretto con la natura. Sì. Io l'ho fatto quando ero ragazzina, mi divertiva molto. E queste sono le vere sensazioni. Sì. Praticamente la sensazione di caldo, di freddo, cioè di sentirsi a contatto, immersi, come dire, nella natura, no? Sono quelle che rimangono poi nella mente, naturalmente, rimangono proprio impresse nella memoria dei bambini. È ovvio. Questo è il fondamento di tutto. E c'è un'ultima cosa, perché stiamo concludendo, c'erano anche dei passatempi più trasgressivi, come quelli di andare con la fionda a rompere gli isolatori dei pali della luce. La famosa fionda che io ho tentato di, perché a volte mi chiamano come artigiano di giochi, cioè in questo caso non sono più un animatore ma semplicemente un costruttore dei giochini, pistole spare elastici, che macchinine, cose varie, tipo, che ne so, il bastone della pioggia, cose piccole, no? Che poi io le regalo poi ai bambini, no? Ma sono cose che loro apprezzano molto, giustamente. Le macchinine invece sono cose che io poi utilizzo come animatore, no? Certo. Ascolti, signor Marinello, come sta suor Michela? Suor Michela sta bene, l'ho sentita alcune sere fa. Ecco, ce la saluti tanto. Sì, esatto. E adesso ormai il tempo è scaduto. Il tempo qui è sempre tiranno. Noi ringraziamo naturalmente tanto, per il suo intervento, perché ci ha riportato a qualche anno fa, diciamo. Ecco. E grazie, comunque ci risentiamo. La cosa, possiamo dire, è reciproca. Bene. Grazie mille, signor Marinello. Grazie, alla prossima volta. Grazie, arrivederci. Allora ringraziamo il signor Marinello, che così ci ha riportato un po' indietro nel tempo. E ormai è Antonio. Ci siamo. Allora ci salutiamo. Naturalmente. Ecco. Alla prossima volta. E un saluto affettuoso come sempre col mio ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.